La Anthony Perkins Productions presenta A Rebours. Marginali d'ogni tempo e d'ogni arte, o quasi. Innanzitutto un bel sogno per me, perché ero riuscito a fare della mia più grande passione, cioè la musica, anche il mio lavoro. Quindi ero anche diventato abbastanza famoso, avevo anche abbastanza successo, quindi dici, ma quello è matto. Invece no, più che altro io sono un po' timido, ecco. È timido e quindi non ha più il coraggio di affrontare il palcoscenico? Sì. No, stare lì sotto i riflettori, non so, i mass media, così tutto amplificato, qualsiasi cosa fai, mi trovo un po' a disagio, quindi... Sei sempre verde mai d'autunno, sei frutto che s'aprì, hai ombre in festa dappertutto, o cuore che fiorì. Io t'amo solo perché t'amo, un'altra non la so, ma sei di mandorla se t'apri e amarti amaro un po'. Che partì di miele e amara tornò. Son fedele a questo dolce fiele, amara t'amerò. Orizzonte tu sei, tu che non finisci mai, tu mai tu sei tanta e non più. Sei la santa che fa i miracoli a metà, metà cara amara per me. Stanotte tu sarai di paglia, di voglia veglierò, tra tante notti e tanta luna diventerai falò. Versiamo insieme miele e cera, la sera arrossirà. Rubiamo il sangue poco a poco e i baci a chi baciò. Tu sei luna pazza senza scopo che il pozzo incantò. Son fedele a questo dolce fiele, amara t'amerò. Orizzonte tu sei, tu che non finisci mai, tu mai tu sei tanta e non più. Sei la santa che fa i miracoli a metà, metà cara amara per me. Solo perché t'amo, un'altra non la so, ma sei di mandorla se t'apri e amarti amaro un po'. Ascoltatori di Radio ZAM, Radio ZAM, buonasera. Siete in ascolto di Arebur, stasera una puntata musicale. Le voci che avete sentito prima parlare intervistata e poi cantare la prima canzone di questa sera era quella del grande Enzo Carella, un bizzarro cantautore italiano che ha fatto pochissimi dischi e che, come avete sentito prima, ha avuto due parti della sua carriera separate da un silenzio di 10 anni, una carriera che è stata segnata anche dalla collaborazione con il grande paroliere, molto particolare in quanto a scelte linguistiche e narrative, se così si può dire, Pasquale Panella. E stasera passeremo, come al solito, una mezz'oretta in compagnia di Enzo Carella, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente 8 anni fa. Buon ascolto! Bello tempo, bello per Carmè. baciaci tu, Carmè, Carmè, bacia che ci piace un bacio, la Iuli, Carmè. Pure te la gallina disegnata? Certo che ce l'ho. Le schede sono tutte uguali. Ecco. A Pippo! A Pippo! A Pippo! A Pippo, c'è sta pure la bella pagnotta, l'hai vista? C'è sta pure la bistecca! A me! Oh, a me! Ci hanno dato tutto il menù! Pure la frutta ce sta! Silenzio, per favore! A me, ma come voti te? Comunista? Sì, comunista, sì. La faccia del martello, Comunista. Oh, vabbè. Oh. Qua ce ne stanno tre di falce e martello. La prima a sinistra. A sinistra? Ma che stai a dire? Ma come ce l'hai messa te la scheda? Ma girala. In alto a sinistra. E mettatela. Eccola qua. Settima e ottava canzone in programma. La prima ce la presenta Enzo Carella. Si intitola Barbara e di Carella e Panella. Dirige l'orchestra il maestro Gianni Massa. Di Enzo Carella abbiamo poche notizie perché è un ragazzo che è all'inizio della sua carriera, quindi è un debutto molto importante. Gli auguriamo di fare carriera e di tornare tante volte negli anni a venire qui a Sanremo. Poi avremo i collage in La gente parla di De Sanctis, Di Nardo e Marrocchi. Dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi. Per quanto riguarda i collage, è un gruppo di ragazzi che hanno debuttato qui a Sanremo 2 o 3 anni fa, molto bene. Vengono dalla Sardegna. La Sardegna è una regione che ha dato pochi cantanti, ma quei pochi che ha dato molto buoni. Ascoltiamo quindi i due cantanti che vi abbiamo introdotto. Il freddo mi innamora. Oh yeah. Barbara, diavola che scivola, scioglilo per noi, quel tuo senso in più, fondilo, il mio cuore zucchero, rosso con le mandorle, rapinosa, mordilo. Offriti in bocca, la bocca tua al bicocca. Offriti il naso, la bocca tua è di raso. Offriti al collo, in bocca a te più bello. Offriti ancora, il freddo mi innamora. Oh yeah. Oh Barbara, I love you Barbara. Una twist again Barbara. Una rock and roll Barbara. Dunque avete sentito di Enzo Carella Carmè dal suo LP Barbara e altri Carella. L'inserto filmato come consuetudine di Arebur è preso da un cult come Due pezzi di pane, film del filosofo Sergio Citti del 79 con Vittorio Gasma e Philippe Noiret. Perché il 79? Perché il 1979 è l'anno in cui Enzo Carella entrò nelle case di tutti gli italiani, come avete sentito nello spezzone sonoro successivo a quello del film, al Festival del Sanremo, performance introdotta da Anna Maria Rizzoli e Mike Buongiorno, performance che ricordo ancora con grandissimo divertimento. Dialetto antico, nel loro diletto pratico, la vogliono fare bollire. Che la vogliono suonare appesa al campanile. Che la vogliono ricoprire di cioccolata. Che la vogliono servire in bocca. Ad una bocca sterminata di forno. Che cosa le tocca? Sentire che cosa? Allora ricordarsi di fare delle cose, delle fotografie, che possono sempre servire e non se ne parli più. Gesù, Gesù, che non se ne parli più. Gesù, Gesù, ed è ancora mattina. Tutti sono pronti a bere qualcosa e poi si riprende fiato per fare le bolle acustiche. Che la vogliono olio e limone. Che la vogliono aggiustare. Entriamo in un portone. Che la vogliono un po' scoperta per accettare. Che la vogliono nell'ascensore. Acquetta fuochino. La gloria all'ottavo. Che la vogliono ricoprire di cioccolata. Che la vogliono servire in bocca. Cosa le tocca sentire, che cosa? Signori, le schede vanno consegnate qua. Ma... signor Presidente, queste schede vanno annullate. Ma che annullate? Non si annulla niente, vanno benissimo. Andate in cabina e chiudete le porte. Niente affatto. Si legga il regolamento, lei. Abbiamo visto tutti perché hanno votato. Signor Presidente, hanno consegnato le schede aperte e abbiamo visto perché hanno votato. Io non ho visto niente, Perché hanno votato? Dillo. Perché avete votato? Abbiamo votato comunista. Sì, comunista. Malamore. confusione. Stogliando i nervi, il pensiero va in canzone. Un ago nella pelle, il tuo colpo migliore. O il fiore che si secca nell'occhiello del cuore. Di che segno mi amerai di malamore? Di che segno mi amerai di malamore? Sì, di malamore. Quindi avete appena ascoltato Cosa succederà alla ragazza, che è un pezzo di Lucio Battisti. Cosa c'entra con Enzo Carella? C'entra che le parole pronunciate da Lucio Nazionale in questo e negli altri dischi cosiddetti bianchi vengono dalla stessa testa di tutti i dischi di Carella, ovvero dal già nominato Pasquale Panella. In mezzo, per introdurre l'altro pezzo di Enzo Carella, avete sentito un altro spezzone di Due pezzi di pane di Sergio Citti, che è seguito a Malamore. E ora, prima di lasciarvi appunto al resto della programmazione di Radio ZAM, vi comunico anche che questa è l'ultima puntata di Arebur per questa stagione, quindi ci sentiremo chissà quando per la prossima, forse, ma io spero di sì. E quindi vi saluto e vi ringrazio e vi lascio a questa ultima canzone di Enzo Carella, Stai attenta. Ma noi ci sentiamo ovviamente la prossima settimana con Ulisse contro tutti. Buonanotte. Dimmi come m'ami, ti dirò chi sei. Dimmi che mi chiami, fatti fatti miei, fammela sentire quella voce da bandita che manda in alto le mie mani, la mia vita. Vienimi vicino, diventiamo amici, chissà il mio nome, tu come lo dici? Se lo mandi giù come un morso della mela, ti sveglierà stanotte con un male in gola. Stai attenta, molto attenta. Stai attenta, molto attenta. Salgo sulla scala della fantasia, entro nei tuoi sogni, faccio una pazzia. Luce sotto il mento, faccia della spia. Prima ti spavento, poi ti porto via. Stai attenta, molto attenta. Stai attenta, molto attenta. qualche fumetto mi disegnerai, dimmi in che finale poi mi aspetterai. Fammela sentire quella voce da bandita che manda in alto le mie mani, la mia vita. Dimmi quando spegni se mi indosserai, dimmi nei tuoi sogni quante me ne fai, se mi mandi giù come un orso della mela, ti sveglierai stanotte con un male in gola. Stai attenta, molto attenta, stai attenta, molto attenta. Salgo sulla scala della fantasia, entro nei tuoi sogni, faccio una pazzia. Luce sotto il mento, faccia della spia, prima ti spavento, poi ti porto via. Stai attenta, molto attenta, stai attenta, molto attenta. À rebours.